non ce l'ha. Ci sono, se ci sa che era quelli da 40, il litri 40. Ho sollevato i 30 centimetri di terreno, anche è tutto come travalla. Un po' zappetato, poi sono la terra sopra, tutto recitato, ho fatto come si deve, dai. L'ho recitato, ma non è, sono le gare, ho messo la prima volta le cipolline, cazzo mi dai di frutti, va a fa cunque, allora sarò tutto e faccio la cazzo. Come al solito, ma non si fa tenuta a noi. Allora, ma la gara è fatta. La carità, gente, che non sa fa nulla. E oggi vi qua, come si lasciava, fa un po' di bianco, c'era un papiro che voleva entrare, entrava lì come faceva un russo, ha giocato mica, no, ma tu ero meno che me. Avanti. Ma se vuoi entrare ti risolvo per la via della luce. Se pisci l'orecchio del nonno forse fa bene. Uia. E beh, quindi non si sa da cos'è perché non c'è ricezione quell'altro apparato. Allora, praticamente, adesso mi ha mandato un messaggio, mentre il sano che si prenderà da sotto dallo squadro, che non le dava, che non c'è la motivazione. Quindi sono il segnale del sale, però non sente nulla. E mettendo le cuffie, lo senti? Provando anche quello, non c'è una lanza. E capito, non è se l'ha inserito la squelce per caso, no? È quello che sta guardando, per vedere che non c'è dallo squelce. Tu dal tecnico non la vuoi portare al Pomponio? Ma devono peggiorare. E se no, cazzatemi, Maroè. Sicuramente. Oi. Beh, e cosa le è rimasto la Gio Maria, va? Non lo so. Però adesso, la gara stava andando. Sì, ma quel prezzo non lo vedrà mai, non sto scherzando. Poi, modificato, tra l'altro, un baracchino che lo modifichi non ha più il suo prezzo reale, già lo sai. Già lo so, non è l'originale, che non si è mai stato bucato, quello lo prendo anche io. Infatti. Io ho pagato 200 euro, stavo da casa, ed è immacolato, nuovo, e mandare. Io non sento, ne ho avuto tre quando ero su, uno me l'avevo preso la testa, due ne avevo preso da uno, che abitava vicino a me, era un radio mattone addirittura, era di lui, e me l'avevo fatto pagare 200 euro l'uno, figurati, neanche 200, 180 euro, fatto conto. Io quanto te l'avevo venduto, non me ne ammette, ma un po'. Tu me l'avevo venduto per poco di dinamica, ma la massa. Quanto era? 500 euro? In più, mi sembra che sia 100 euro. Allora, nuovo DJ, te l'ho tolto il termino, il termine al tavolo, non te la mette più. Sì, già lo so, però, cazzo, ma non l'avevo fatto pagare, comunque, vabbè, è andata l'ultima. E niente, comunque, già, con 200, con 180 euro, più, mi prende. Ma noi, devi contare che ho preso l'aereo per portarti in branchino. Sì, di la verità che devi farti in fila, tu devi contare l'aereo, No, cazzo, ho preso l'aereo, sono in aereo. Se mi sono all'aeroporto, non te la metto in più. Già lo so, non so voglio finire. E allora che prezzi erano così allora, capito? No, ho fatto caro, un nuovo DJ che l'avevo comprato. Sono taggiato in Bucaria. E tu quanto te l'hai venduto quello lì? Ah, allora, quello lì mi sembra... Non so neanche se l'avevo votato, sono comprato tutti. Questo che ti ha detto che fa? È lontano di 3.000 da tavolo? Siamo andati a lavorare. Mi sembra che l'avevo votato a uno che era addirittura secco, figurati. Non lo possiamo di regalare. Cosa ti dura te? E vai prima che ti vedi Bruizzi che ti prima di a quattro ma dove ci apparati. Lo so, le buttiamo tante soldi qua. Però basta, io in poco tempo mi sono fatto la grande sanzione io. Però qualche altro ce la voglio. Guarda, io se posso spendere sono magari sarà troppo, però un po' complesso e basta, ma ti accettare non mi stare tanto. Grazie, poco pezzo, mi sa che non accetto, il minimo che troverai è 2,50 da fuori. Ma 2,50 in su, ma bisogna anche trovarlo. C'era una sapeva senza maniglia che stava vendendo, ed era 350 euro. Io sono troppo soddisfatto per questo. E sono soddisfatto. E meno male mi sono fatto questo mobile con delle tavole che mi ho comprato, che ho costruito da 2,5, me l'ho pesato, riportato, ma che il controbici che aveva registro tranquillamente. No, più grosso è il multistrato. È un altro materiale, legno, pare, segatura misciata, incollata e pesata. Mentre invece con la mette lamellare da 2 quasi 3 cm, mi sono fatto gli armadietti per conto mio, i mobiletti per mettere l'attrezzatura eccetera in casa. Sì, questo mobiletto invece l'ho fatto per... E anche con una scarpiera, ho fatto anche le poste per le scarpe, insomma, c'è tutto il suo sportello. Niente, se lo trovo un'altra stazione fissa, comunque sono in poche trattative già, se lo trovo un'altra già me lo prendo, dai. Non si dice, è una persona che le frequenze, l'ascolto, le tratto e mi ha parlato, e la prima del telefono ce l'ho sentito. Comunque, mi va bene. No, ripeto, il telaio eterno lo devo riverniciare, io lo ripico e faccio la mia, non ballerina, ma è quello che, come si chiama, orbitale. No, è tutto niente già dentro, no, se no lo faccio in bianco, lo faccio, non lo so, ma fa colore grigio. E guarda che piombo si chiama soprannome, un accelerato operaio. Guarda, c'è un piombo che si è sconfitto, è rimasto lindo senza bere, hai fatto una basso, ho detto, vai Mastro Lindo, la vita ha fatto, ma io sono lindo veramente, invece tu non ti lami. Aiori che porco! Stamattina ho modulato con Roberto, che lavora in un'officina, però io sinceramente non lo conosco. Ma neanche io non ho sentito, vabbè, ho fatto un bianco per 15 anni circa, forse qualcosa in più, non mi ricordo. Quando sono venuto in baracchina, quanti anni fa te l'ho venduto in baracchina, sta portando a Milano? Io da allora ho mollato tutto, fate conto, sono entrato fanno 2 mesi fa. E sei anche io no, tutti anni via, io stavo sulla stazione, sarà già 8 anni che non ho modulato, da quando avevo venduto. Adesso fammi capire una cosa. Questo che stai usando tu adesso, l'antenna, mi è stazionario, te l'ha aggiustato? Sì, sarà 1,8, 1,7, 1,8. Già va bene, dai, se devo fare passaggi in 3 ore. No, infatti sono quasi di circa. Io ne ho 1,2, 1,3, non di più. Io l'ho controllato. Cazzo, questa l'ha passata un radiale della mano, quando è il tuo. Che fa un radiale addirittura, no? Cioè, tipo di pola. Appunto. Cazzo, non di più. Sono un filo 600. A me mi pare che un cesso di macchina è fatto la tipo cubica. Vabbè, anche io la so fare l'antenna con la sopra, con cavoletti che me la porto, la so fare di polo, ma non mi piace fare casino qua, mi va bene come sono adesso, ma non è. Quindi, tu pensa che non mangio più cane fa nulla, mi piace solo incrementare, diciamo, la stazione a voi. Sì, una bassa l'antenna e voi, adesso quando c'è un momento, c'è due giù, una più giù nel bagno, la mia antenna, avanti il bip, Gianni. Buonasera, mio hermano, buonasera a tutti, dai. Ciao Gianni, con quelle sparate l'hai sentito? Fai compagnia di chi sei, Torino? Il mio gran figliuccio, Cinco, Emanuele. Ciao Cinco, ben sentito, dai. Ciao, adesso non ho capito chi era. Forse già sentita da anni fa, non so. Tu sei un amico. Io ti ho sentito, dai. Sei amico di Luca Pi. Sì, sì, tu è Gianni doppio Ru. E allora dopo, sì, appunto, quante volte abbiamo modulato. Mentre io sono Torino, doppia camomilla. So anche che tu eri in continente, sei tornato qua. Sì, ho già. Dopo. Tanto il continente è più di 21 anni. Dopo è successo un casino e me ne sono tornato qua. E sono qui già da 8 anni, sono già qua. E allora, cosa facevi in continente? Sai, io anche tu. Allora, prima facevo un portato di rimarchi e poi me ne sono finito per i problemi che avevo con la schiena e dalle varie. Facevo la guardia giurata sulle banche, sui tassi e nelle guide. Ha pagato. E adesso guardia giurata lo stesso. Ehi, mi dovevano chiamare, adesso vediamo. Dopo è successo quello che è successo, hanno bloccato tutto. Vediamo che cambia in fretta. Vabbè, c'è il curriculum in ogni caso, magari hai possibilità. Cazzo, ero guardia armata, facevo i portavalori, non è uno da picco pallino. Ma lo è? Sì. Ah, ti è rimasta anche la pistola? No, perché me l'ha fatta vendere quella là, per carità, perché aveva paura prima che l'ha sparato. Cazzo, me l'ha portata a vetro, la compravo io, poi sparavo anche due. Cazzo, quella che c'avevo era una peretta semiautomatica da carico notte. A me dice un fucile a pompa, va bene lo stesso. Cambio il palo, fate il trombone. Oh. Era una questa 21 per aiutare. Comunque Emanuele, io ti voglio proporre un affare, grande affare. E che cosa? E io ti voglio dare un baracchino che c'ha 240 canali, c'è il bitto quanto veicolare e mi dai quello che c'è tu. E cazzo, mi pare che hai 40 canali, ma... Manuè. Chi è? Chi è? Ehi, a Leone, da qui. Leone? Non ti ho sentito ruggire, non sto ruggendo più adesso. Comunque ciao, ben entrato Leone. Sì, a buona sera. Stavo provando questo apparecchio, sono sentito una volta, no? Ma sei in basso di radio però, eh. Non lo so, mai. E vedi già, come lo ascolti? E dove moduli Leone? Dai, tiri. Santiago 9, la radio è 5, dai, io lo sento bene. È normale, ma non è bassa, dai. No, io ho un microfono originale, dai. Stavo provando a guardare gli apparati, uno non funziona. Avevo questo e non va. Ah, è 9.15 a parte mia, Leo, sì. Avevo il volume, forse parlavi tu a voce bassa, perché dire adesso ti sento meglio. Ho alzato un po' il volume. Ma ti trovi tu? Io fuori Sassari, periferia, strada per Sorso. Oh, camma, che mi bene, guarda. Io ho un po' di apparecchi che volevo mettere, non trovo la macchina, però ho fatto. Ho perché sono molto freddo. Chi mi chiama? Oh Leone, lo senti Emanuele? Manda la parte, dai. Vai Emanuele. Vedo un po' Leone, che ascolti lì, con le tue cosiacce, vedo un po'. Lo ascolti Leo? No, per istante, niente, neanche l'acqua si muove, da dove muove? Da Lima Delta, la veloce, però non sto usando un'antenna come si deve, c'è un dipolo. No, non mi sta arrivando, guarda, la veloce mi arrivava, Gio Maria era là, mi arrivava. Vinco! Che apparecchio che stai usando adesso? Sto usando un po' di combo, è un tipo la madre, che momento poi modificato al 400 canali. Ho capito, invece. Ma non è? Ma è mio anche se rigraffato quello che ti voglio dare. Che già sei rigraffato vuoi sapere di rame. Sì, quello che non si intende, ma te ne puoi dare a capo. Allora c'è una moto senza motore? Ah, e devo pure pagare di là. Cazzo, c'è dentro con Marachino che vale 4 bici all'ora, cazzo, e tu mi vuoi dare la mondezza? No, la capisci. È un po' questo, se non è mondezza, quella maggioria è stata comprata e gli erano venduta così, capito? Gli erano venduta così. Non è che per caso gli ha un tolto l'alto parlante. No, c'è tutto, c'è tutto, secondo me è da lo squelto. Si sta mettendo le palle che c'è da lo squelto. Tu aggiustala. Qua c'è anche il finale recensione. Pure. Ho detto, poi c'è anche il finale di recensione. Possono essere tante cose, può essere anche una cazzata, anche un transistor può essere, una resistenza, qualsiasi cosa, perché a me me lo facevano una resistenza del gas. Infatti Leone, come mi ascolti di Haiti? Io bello forte e chiaro, e ti fanno. Caffa, il segnale com'è? Vai un passaggio per guardare. Guaggio 3, 4, 5, 6. E qua sei 5 più, ma la radio è bella pure. Ma l'apparato ce l'hai e danno segnali bassi. E se vanno di nuovo e tu? No, io qua sto vedendo segnale 5 e mezzo. Vabbè. E magari l'antenna è ferma da molto tempo e non riceve bene. La mia è ferma una pista, poi mi è caduto anche un radiale, da adesso c'erano gli uccelli portati sopra e mi hanno buttato un radiale a terra. Torino, ti arrivo. Guarda me Leo, io posso ti arrivo. Lo stesso. Thank you. è già molita, è già. No, ma poi c'è fuori il rumore anche là. All'antenna di morte. Ma portante c'è. La Spagna c'è il tiro, tutto Spagna. Gianni. Eia, ho sentito, oui, non lo so, penso che sia quella portante di sé. No, questo è forte. Oh, con questo segnale non è che mi arrivano molti, eh. Perché io ho quello abbasso le RFG a porto zero e mi dà un segnale particolare. Sì, ma è una portante che sta parlando, C'è anche l'eco. Vale, E a te ti arriva forte, Gianni. E anche qua. A me, tu li... sono uguali, tu mi arrivi lo stesso segnale. Che ti arrivo io, quindi più o meno il segnale che ricevi tu lo ricevo io. E a te ti disturba però, eh? E anche a te. Io vedo. Aspetta le mie aree attaccate, tutti qui. E quello è vero. Ancora dopo anni, ancora c'è il rischio di dare fastidio. Certo ci sono. Ma questo coronavirus ne ha portato a galla la mondetta, capito? Ma io avessero una moto senza che rossi accendo, guarda, che trovo portante. Allora, sino a poco tempo fa, quando non c'era il coronavirus, noi modulevamo tranquillamente come se fosse una telefonata, non ce n'era portante. Poi come c'è stata questa storia del coronavirus, tutti erano chiusi in casa, non rispolverà per gli apparecchi e in mezzo alla gente che può essere la più in gamba di questo mondo ci sono anche i rompiballe, capito? Questi non sempre, ma io li ho spolverati, mi hanno funzionato, come mai? Questo funziona. Questo avrà resistito. Resistito alla polvere, ragazzi. Oh già. Tu si ammassi le RPG, ti ammassa anche il segnale. Si ammassi le RPG, quando ti arriva la portante. Aspetta. Da lì mi regolo io, capito? Comunque c'è anche l'eco, eh! Una portante con l'eco, eh! Sì, c'ha l'eco! Sì, a me arriva a 3,4 metri, che sia molto alto, E comunque nella zona nostra! Allora ce l'ha con voi! A me manco male male, perché io spiego il maracchino e c'è la biglia in culo! È l'unica, io stacco tutto perché l'ho portato nel mondo! Eccoci un qua che vuoi da portante. Forse ma è, ho capito chi è. Hai capito? Ho capito chi è il portantista, è un mezzo figlio mio. Mezzo figlio mio, mi sono trombato la madre, è nato lui. Gianni. Riprendi. E sto aspettando. L'ha messo un po' di volte, cara. Ehi, mi stavo mettendo gli occhiali, perché sono... Avanti, Gino. Ma tu dove sei? Stanno di accorto, vuol dire? No. Dove? Via Mardetta. Ma di già accorto, sì. Sì, Santa Rossetta, ecco. Prima era Sacro Cuore, quando era a casa di mamma. Dopo mi sono sposato e adesso sono tutto qua. Quindi c'è vicino a Leoncino, già. Eia. Comunque quando ha parlato tutto l'ha messo due volte, capito già? Eia. Sta misurando l'effetto. No, questa è piccola portante. Ma la deve essere al passo io, una del tre. Ha voglia. Voglia la cartella. La superi il brutto, questa, perché è piccolina. Vabbè, io mi sono curato, non lo so, non lo so. Ciao. Non lì, vai 45. Eia.